Il mio nome è Free Drink, immagini il perché. Mi ricarico come una team mettendo gin nel caffè. Vengo da Palermo, il talento ve lo vendo. Senti freddo, ti riscaldo il cuore in un momento. Faccio rap perché sono disoccupato. Sono disoccupato, non sono incensurato. Non avrò la carriera d'avvocato. Sono in cerca della mia bonifica di giovane onorato. Io non canto, urlo come un ultras. Fanculo alla Digo, sfanculo pure i Nas. Come trans tengo solo grosse sorprese. Per questa tua musica da emo depresse. Vorrei stuprare preti pedofili in nome di Dio. Violentare violentamente troie minorenni con mio zio. Andare a Rio e fare il quarantenne puttaniere. Mandare a fanculo queste mie fottute sere nere. Queste Free Drink, prova a fermarlo. Rum e coca nel bicchiere di cristallo. Queste Free Drink, prova a fermarlo. Rime nelle armi e piatti per gli infanti. Queste Free Drink, prova a fermarlo. Rum e coca nel bicchiere di cristallo. Queste Free Drink, prova a fermarlo. Rime nelle armi e bombe negli impianti. Sono anni che non sono più sobrio. Ecco perché sta merda mi sembra oro. Sono anni che non faccio più niente di buono. Ma non è per questo se il mondo sprofonda. Questo è lo tsunami, frano la grande onda. Non voglio una moglie ma una bionda tutta tonda. Tieniti le mie ex dal reparto isteria mentale. Mangio all'osteria quarume, quale brodo vegetale. Troppi bimbi che fanno cose da grandi, ma senza la consapevolezza dei grandi. Parlano di grammi, di armi e di sesso. Una tredicenne la sua prima volta dentro un cesso. Mi rilasso con il drink fermo nella mano. Sotto non talento vado ancora più lontano. Mi ritrovi stessa a terra sempre solo in coma. Assenzio negro, ni gin senza toni, ma funziona. Questo è Free Drink, prova a fermarlo. Rum e coca nel bicchiere di cristallo. Questo è Free Drink, prova a fermarlo. Rime nelle armi e piatti per gli infanti. Questo è Free Drink, prova a fermarlo. Rum e coca nel bicchiere di cristallo. Questo è Free Drink, prova a fermarlo. Rime nelle armi e bombe negli impianti. La gente qui mi dice che non combino un cazzo. Me lo dice gente che non vale proprio un cazzo. In giro ti vedo con gli occhi da pazzo. Metti FD sul woofer, crolla il palazzo. Su YouTube non vedrai mai i miei show. Non sono né Jude ballerino di Landog. Depravato, ubriaco, senza il flow, bro. Uso internet solo per you porno. Dicono i tuoi amici che il tuo disco vale un sacco. Poi vengono da me per dirmi che è un pacco. Io il pacco lo tengo in mezzo alle gambe. Per spaccare non ho bisogno all'arrocco che sia grande. Metto le mani sopra la città. Vi taglio le lingue e basta bla bla bla. Se loro chiedono chi è questo qua, tu grida al cielo.